Salva Danaio di Deborah Rosciani. Buongiorno a tutti, benvenuti ad un nuovo appuntamento con Salva Danaio da Deborah Rosciani. Allora, in questi giorni, molti di voi lo avranno notato, si è tornato a parlare dei debiti delle famiglie italiane. Perché? Perché due giorni fa il supplemento al bollettino statistico della Banca d'Italia di luglio ha divulgato alcuni dati, un quadro offerto che per qualcuno non è stato particolarmente incoraggiante. Allora, cosa abbiamo letto sui giornali? Che i prestiti concessi alle famiglie italiane sono ammontati alla fine dello scorso luglio ad oltre 579 miliardi di euro. A giugno erano circa 576, e questo è il primo dato. E allora, su che cosa hanno puntato l'attenzione le associazioni dei consumatori e i giornali? Sull'aumento sensibile rispetto ad un anno prima, quando lo stock dei debiti era quasi di 480 miliardi, quindi parliamo di un aumento da un anno ad un altro di 100 miliardi, più 20,7%. E allora, come potete capire, tanto è bastato a far saltare sulla sedia tutti i rappresentanti delle associazioni dei consumatori, che hanno parlato di un vero e proprio segnale di allarme. D'altronde, insomma, bisogna riconoscerlo, più 20% è una cifra piuttosto pesante, ma naturalmente questo ha anche scatenato un po', io la chiamerei così, poi magari le daremo una migliore definizione, frustrazione da parte degli operatori del comparto finanziario, perché hanno detto, insomma, nessuno ha spiegato che in realtà questa cifra risulta da una nuova metodologia di calcolo dei crediti appunto erogati da parte di banche e finanziari. Io l'ho detta in maniera molto banale, ma questa mattina Giuseppe Piano Mortari, direttore operativo di Assofin, ci spiegherà meglio di che cosa stiamo parlando. Intanto buongiorno e benvenuto. Buongiorno a lei che ci ascolta. Non perché poi i debiti delle famiglie italiane non siano aumentati, ma in realtà, depurandoli e dandone un quadro netto, risultano in aumento molto più contenuto. E allora però dovremo anche sentire, come dire, la campana delle associazioni dei consumatori, perché in ogni caso l'allarme sul debito delle famiglie lo lanciano da tempo, continuano a lanciarlo e continuano a chiedere di mantenere viva l'attenzione su questo problema, perché da 4 anni a questa parte in realtà per molte famiglie la situazione finanziaria è cambiata, in certi casi in maniera molto dirompente e drastica, e quindi queste famiglie vanno ascoltate. Noi intanto speriamo di farlo questa mattina all'800 24 00 24, poi cercheremo anche l'aiuto dell'avvocato Maria Stella Anastasi, segretario della Lega Consumatori, consulente legale per il comparto bancario e finanziario di questa associazione. Avvocato, buongiorno, bentornata a Salva Danaio. Buongiorno a lei, buongiorno agli ascoltatori e ai suoi ospiti. Allora, abbiamo già ricordato il numero verde che vi permette di intervenire. Io vorrei sentire appunto anche la vostra, come dire, versione dei fatti, nel senso, appartenete quantomeno ad una famiglia che ha dovuto fare più ricorso al credito bancario, ha dovuto chiedere un prestito da un anno a questa parte, più volte magari, perché le condizioni finanziarie a casa vostra sono cambiate, perché c'è qualche componente che ha perso il posto di lavoro, perché insomma è venuto a mancare un introito importante, quindi questo vi ha reso particolarmente pesante la rata del mutuo, vi ha messo in difficoltà magari con un altro prestito attivato per un altro motivo, perché c'era bisogno magari di rifare la lavatrice piuttosto che di comprare un divano nuovo. Insomma, raccontateci un po' quello che è successo, e quindi metteremo anche a confronto con voi i dati della Banca d'Italia. O se non ci volete chiamare, scriveteci al 349-238-6666. La borsa rapidamente, borsa negativa anche quest'oggi, in un mercato che ancora si preoccupa per l'andamento dei titoli bancari. Vedo però un miglioramento adesso rispetto ad un'apertura che era stata più preoccupante, più in rosso. Londra perde lo 0,6%, Francoforte meno 0,14%, anzi meno 0%, adesso meno 0, è sullo 0, quindi ha azzerato la sua perdita. Parigi meno 0,14, Milano meno 0,26, perdeva quasi un punto. Piazza Affari, quindi vedo un sensibile miglioramento anche su Milano, che rimbalza. Il quadro oggi è particolarmente turbolento anche sul settore valutario, perché lo yen ha ripreso a schiacciare le altre divise, il rapporto all'euro 106,58, tra l'altro stamattina franco svizzero anche molto forte sull'euro, un euro vale 1,28 franchi, lo yen torna anche ai massimi da 15 anni sul dollaro, e insomma ci si riporta sulle valute rifugio, e magari questo potrebbe essere oggetto di nuovo di una puntata di Salva Danaio nei prossimi giorni. giorni. Rapidamente, i migliori titoli di Piazza Affari in pregiro, più 1,65, Lottomatica, più 1,52. I talcementi, più 1,40, A2A, più 0,97, Mediaset, più 0,90%. Perde il 2,25% STM, Buzzi, meno 1,36, Geox, meno 1,28%. Vola Fastweb, come vi dicevo nel giornale radio, più 33,36%, è arrivata l'offerta pubblica di acquisto residuale degli azionisti di Swisscom e i titoli si sono immediatamente allineati al prezzo proposto per l'offerta, che è di 18 euro. Lasciamo la borsa, andiamo al tema di oggi, che è l'indebitamento delle famiglie italiane. Aumentano i debiti per gli italiani. Parla chiaro l'ultimo bollettino statistico della Banca d'Italia, secondo cui tra luglio 2009 e luglio 2010 sono cresciuti di oltre 100 miliardi, un'impennata del 20,8%, che ha portato il totale dei prestiti alle famiglie a raggiungere i 579,4 miliardi, contro i 479 di un anno fa. Alla base dell'indebitamento delle famiglie non si trova solo la necessità di far fronte ai consumi e arrivare a fine mese. Il dato più consistente, infatti, è quello dei mutui per l'acquisto dell'abitazione, 343 miliardi contro i 270 dell'anno scorso, solo per i prestiti superiori ai 5 anni, che diventano 345, includendo quelli di durata più breve. Seguono i prestiti di altra natura, tra i quali 170 miliardi per i prestiti personali, e solo in fondo alla lista si trova la voce relativa al credito al consumo, che si attesta intorno ai 63 miliardi. Le associazioni dei consumatori lanciano un allarme per la condizione delle famiglie, ormai ridotte al collasso, una situazione di fronte alla quale, affermano, non si possono più rimandare interventi concreti, tesi ad aumentare il potere di acquisto. D'altra parte, va detto che un contesto per molti aspetti critico, come quello dell'ultimo anno, ha favorito la promozione di diverse iniziative a sostegno di chi è in difficoltà. Ultimo nato il Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa, che consente, per un periodo, di sospendere il pagamento delle rate. 800 24 00 24 è il numero verde che vi dà l'opportunità, se vorrete, di confrontarvi con noi sul tema di questa mattina. Giuseppe Piano Mortari, allora, voi quando avete visto questa grande enfasi che è stata data intorno all'aumento dei debiti delle famiglie italiane, più 20,7% secondo le rilevazioni di Banca d'Italia, chiaramente siete anche voi balzati sulla sedia, perché bisognava andare un po' ad analizzare a fondo questa crescita. Allora, ci spiega, come se la stesse spiegando ad un bambino di 5 anni, che cosa vuol dire questa discontinuità statistica, che in realtà dovrebbe permettere di leggere in maniera molto diversa questa percentuale. Sì, certo, allora direi che oggi ci sono due temi sul tappeto: quello della situazione delle famiglie, del loro ricorso al credito, delle difficoltà che incontrano, eccetera, e il secondo, che è il primo dal quale comincio, che è quello del come certe notizie nascono e si diffondono. Lo sapevo che ci toccava, vabbè, era stato preannunciato. Perché questa situazione, insomma, che oggi analizziamo è veramente emblematica. Che cosa è successo? È successo che i nuovi sistemi contabili, che sono ormai stati adottati da qualche anno dalle banche, comportano la necessità, diversamente dal passato, di includere nel bilancio anche i crediti cosiddetti cartolarizzati. Mm-hmm. I crediti cartolarizzati sono dei crediti che vengono ceduti dalla banca o dall'intermediario finanziario a una società terza, una società veicolo, e che da quel momento fuoriuscivano dal bilancio delle banche. Banca d'Italia, che rileva i dati di tutti gli operatori bancari e finanziari e che riporta il dato dello stock dei crediti o dei debiti, a seconda di dove si vedano, dei debiti delle famiglie, lo ha fatto fino ad oggi al netto delle cartolarizzazioni, ma per adeguarsi noi ai sistemi contabili, come imposto anche dalle normative europee, dal giugno di quest'anno, cioè dal giugno 2010, ha dovuto includere anche i crediti cartolarizzati nell'ambito delle sue rilevazioni. Una cosa molto... Cartolarizzati quanto tempo indietro? Perché io sto pensando, ad esempio, Piano Mortari, al mio mutuo. Io ho fatto il mutuo nel 2004, è stato presumibilmente, se non ricordo male, calcolato l'anno dopo, non è che si risale così tanto indietro nel tempo. Sì, no, tutti i crediti cartolarizzati che risultano ancora in capo a quel soggetto e a quella banca sono tutti riportati all'interno, quindi comportano un salto considerevole. Eh beh, 100 miliardi effettivamente ha fatto spaventare, direi, un po' tutti, ragionevolmente. Ovviamente includere i crediti cartolarizzati nei crediti è una cosa molto corretta dal punto di vista contabile. Noi, per esempio, che abbiamo la nostra rilevazione come Assofin, lo facciamo da qualche tempo. Ovviamente Banca d'Italia, che è un sistema molto più complesso, per arrivare a questo punto ci ha messo un po' di tempo, e di fatto la prima rilevazione che contiene anche i crediti cartolarizzati, come spiegato nelle note metodologiche di Banca d'Italia, è quella del giugno 2010. Mm-hmm. E poi questa di luglio, perché è mensile, è la seconda consecutiva. Ovviamente nel momento in cui si includono questi dati si deve stare attenti a non comparare mele con pere, cioè da un certo momento in poi c'è dentro anche un'altra roba, prima non c'era. Mm-hmm. E quindi la comparazione fatta senza tener conto di questa differenza ovviamente porta a risultati diciamo molto diversi, che molto io diversi. Ho riscontrato sono del circa l'8% di crescita del totale dei prestiti concessi alle famiglie d'oranno a questa parte, secondo la sua rilevazione invece è ancora inferiore questo dato, ulteriormente più piccolo, più guardi, ridotto. Nelle nostre rilevazioni, nel nostro osservatorio statistico, noi abbiamo una crescita delle consistenze dei mutui, parliamo dei mutui, dell'1,2% e del credito al consumo del 4% circa, quindi siamo su questi ordini di grandezza. Sì. Non certamente il 20, il 30 che si è letto in questi giorni sui giornali, e qualcuno, facendo una comparazione non corretta, ha diffuso una notizia che è stata ripresa un po' troppo criticamente, francamente, perché francamente ritengo che si potesse capire che c'era qualcosa di diverso. Va bene, detto questo, no, poi peraltro devo anche dire sempre dando ragione a Giuseppe Pianomortari che ci sono state anche delle considerazioni un po' contraddittorie, perché alcune associazioni dei consumatori, adesso chiaramente poi mi diranno che sto facendo la trasmissione tutta a favore delle società finanziarie, delle banche, io spero insomma che abbiate l'onestà intellettuale di capire quello che sto dicendo, ma un paio di associazioni dei consumatori hanno ovviamente enfatizzato l'aspetto della difficoltà delle famiglie, sostenendo che molte di queste sono al collasso, e queste lo sappiamo. Contestualmente, nei medesimi comunicati stampa si parla anche di un credito al consumo al collasso. Allora bisogna vedere dove sta la verità, perché se i prestiti crescono del 20% è chiaro che mi pare che si possa parlare di un settore che gode di ottima salute e non certo di un settore al collasso. Le due cose non possono viaggiare insieme. Detto questo, avvocato Anastasi, più 20, più 8, più 2, più 4, parliamo delle percentuali che vogliamo. Io non credo che però alle sedi delle associazioni dei consumatori arrivino delle famiglie che non hanno problemi. Tutt'altro. E allora lei qual è, come dire, la valutazione che ci può dare rispetto a queste statistiche che stiamo cercando di interpretare? Ci sono nuove famiglie in difficoltà, questa è sicuramente una realtà incontrovertibile. Ma vede, il discorso è un po' questo, voi avete snocciolato una serie di dati, di cifre più o meno condivisibili, il dato reale mi sembra un 1, e cioè che le associazioni di tutela dei consumatori da anni, quindi da ben prima della crisi del 2008, facevano presente le difficoltà delle famiglie italiane, sentendosi dire, ma non da Assofin, da ben altri interlocutori, che stavamo vaneggiando, che stavamo facendo i disfattisti. Il problema è che noi guardiamo la realtà di quello che accade ai nostri sportelli. La nostra realtà, la realtà che vediamo agli sportelli, è una realtà di famiglie che sono indebitate con le carte revolving. Che tipo di famiglie, che tipo di, come dire, di clienti, di consumatori? Da una parte i giovani e dall'altra gli anziani. Anziani che spesso si indebitano con le carte revolving per dare una mano ai giovani, quindi magari ai nipoti. Quindi una situazione che non mi sembra sia un bellissimo quadro. E quindi mi pare che adesso la guerra di cifre poi ce la possiamo raccontare, come è stato fatto negli ultimi 3 anni almeno, quando le associazioni, ribadisco, insistevano nel dire c'è un problema, c'è una crisi. Si diceva no, la crisi non c'è, non è vero. Siamo a questo punto, per cui onestamente mi sembra che così la guerra di cifre non serva a nessuno. Ma diciamo che forse questo è un tema che si è prestato, avvocato Anastasi, a tante riflessioni, perché chiaramente in passato, in un paese che non conosceva in alcun modo l'indebitamento, il credito al consumo, il pagare a rate il televisore o il divano, chiaramente nel momento in cui questo settore è cominciato a crescere enormemente, da una parte si è parlato di un modo diverso per come dire, gestire anche la quotidianità finanziaria con più programmazione, definiamola così, dall'altra parte per chi come voi affronta solo ed esclusivamente le questioni problematiche, perché questo va riconosciuto, è chiaro che la sensibilità su questo tema deve essere necessariamente diversa. Siamo ritornati a Salvadanaio. Questa mattina la nostra trasmissione ha preso a pretesto la divulgazione dei dati della Banca d'Italia sull'erogazione di prestiti alle famiglie italiane. È stato il supplemento al bollettino statistico di luglio e c'è stato questo dato che è stato molto enfatizzato da molti giornali nei giorni scorsi e che abbiamo ritenuto doveroso appunto spiegare un po' meglio ai nostri ascoltatori, perché risulterebbe che da un anno a questa parte il totale dei prestiti concessi alle famiglie da parte del sistema bancario e finanziario italiano sarebbe cresciuto del 20%, poi abbiamo scoperto che in realtà la cifra percentuale è molto più contenuta, ma ha dovuto tener conto di una metodologia di calcolo diversa, che abbiamo spiegato nella prima parte, adesso non ci ritorniamo perché è abbastanza complessa. Di fatto, tra le percentuali da una parte e la situazione reale di molte famiglie dall'altra, chiaramente poi ci si scontra, perché le associazioni dei consumatori, come dicevo prima, questa mattina rappresentate dalla Lega Consumatori, affrontano casi sempre molto difficili e problematiche, sono quelli delle famiglie che chiaramente per risolvere i problemi si rivolgono ai loro sportelli. Dall'altra parte abbiamo invece il comparto finanziario, i soggetti che erogano prestiti e che possono evidentemente raccontarci un'altra realtà, ma chiaramente anche questo è un settore che ha sofferto molto negli ultimi 4 anni. Insomma, come sapete bene, in un frangente le banche avevano quasi interrotto completamente l'erogazione di mutui e di prestiti. Adesso, forse anche partendo da una situazione che era molto bassa, lo stock risulta dei crediti appunto erogati particolarmente interessante, forse proprio perché si partiva da una situazione difficile. Anche di questo bisogna parlare. Detto questo, faccio concludere il discorso all'avvocato Anastasi, che prima ho interrotto. Io sollevavo proprio un po' l'aspetto della necessariamente diversa sensibilità che avete sulle questioni, avvocato Anastasi, proprio perché oggettivamente affrontate ogni giorno casi molto problematici. Chiaramente non arriva da voi una famiglia che non ha difficoltà a raccontarvi insomma come se la passa e le motivazioni per cui ha chiesto un prestito. Ma però è anche un elemento che va considerato, per esempio, è che qualche tempo fa erano usciti dei dati sul fatto che si fosse ridotto il risparmio delle famiglie, cioè le famiglie non riuscivano più a risparmiare, non solo non riuscivano più a risparmiare, ma stavano erodendo i risparmi. Esatto, magari qualche volta prima di chiedere un prestito vanno ad intaccare le riserve che hanno, e questo è un altro problema. Quindi c'è anche questo elemento che contribuisce da parte nostra a farci dire che le famiglie sono in difficoltà e sono probabilmente in una situazione di sovraindebitamento, che sicuramente è un sovraindebitamento forse neppure recente, probabilmente già di qualche anno fa, cioè degli anni in cui sappiamo ci fu la crescita esponenziale del credito al consumo, il costo dei mutui, quindi sicuramente quella di adesso è una situazione che si è comunque andata creando nel tempo, ma il fatto comunque che si sia detto l'Italia ha resistito meglio di altri paesi alla crisi perché c'è la famiglia italiana, ha resistito meglio, perché ha fatto da ammortizzatore sociale. E sì, questo è verissimo, ma a quale prezzo lo ha fatto? Andando a intaccare i risparmi. Noi speriamo insomma che questa possa essere una situazione dalla quale uscire al più presto, se l'economia si rimetterà in moto. Non è una situazione che è probabilmente dietro l'angolo, ma lo speriamo, per contribuire a rasserenare le famiglie. Detto questo, dottor Piano Mortari, i prestiti che conosciamo sono di varie tipologie. Al momento qual è la distribuzione del debito fra le famiglie italiane secondo le rilevazioni? Perché una famiglia che chiede un prestito personale alla banca evidentemente deve risolvere problematiche diverse rispetto ad una famiglia che chiede un prestito finalizzato per l'acquisto del frigo, del televisore o della lavatrice. Noi su questo aspetto ci eravamo soffermati a lungo in passato, perché aveva proprio denotato un contesto di difficoltà nuovo. Adesso come si indebitano gli italiani? Ma se parliamo delle diverse forme del ricorso al credito al consumo, diciamo che quello a cui abbiamo assistito nel corso dei primi 7 mesi di quest'anno è intanto una decrescita delle erogazioni di circa il 6% del credito al consumo complessivo. Nell'ambito di questo, la principale voce che è andata diminuendo sono stati i crediti finalizzati, cioè quelli erogati attraverso i punti vendita di beni e servizi. In particolare c'è stato un forte calo dei finanziamenti auto, che è legato all'andamento del mercato automobilistico. Esattamente, matricolazioni tracollate, di conseguenza, certo. Sì, nel primo trimestre sono andati bene i finanziamenti perché sono andati bene anche le vendite di auto, poi dopo è crollato il mercato. Ma il classico bene durevole che si compra a rate poi peraltro, ecco. Esattamente, quello è il classico bene e dunque questo è stato l'effetto. I prestiti personali sostanzialmente tengono rispetto all'anno scorso. L'anno scorso sono diminuiti fortemente i prestiti personali di circa l'11%, quest'anno sono sostanzialmente sullo stesso livello, -0,8%, vuol dire sostanzialmente lo stesso livello di erogazione. La cessione del quinto dello stipendio, molto legata all'azienda dove si lavora, perché ti dà la garanzia per poter avere la porta aperta in banca. La cessione del quinto è la forma tecnica che sta conoscendo la, diciamo, la diminuzione più forte, è almeno 14% nei primi 7 mesi del 2010 rispetto all'anno precedente. Questo è dovuto a una serie di ragioni, tra le quali alcuni richiami che l'Istituto di Vigilanza ha fatto agli operatori sull'adozione di prassi, diciamo, di un certo tipo, che ha portato gli operatori a essere più prudenti, e questo ha comportato una riduzione netta dell'erogazione di cessione del quinto stipendio del 14%. Le revolving citate dall'avvocata Anastasi dove le troviamo? Sotto anche che voce statistica? Sono le carte di credito rateali, noi diciamo è meglio individuarle come carte di credito rateali, ci piace di più, e comunque conoscono anche loro un segno negativo del 5%, quindi le erogazioni connesse all'utilizzo di carte rateali sono in diminuzione del 5%. E ricordiamo che ci sono alcuni importanti soggetti che operano in Italia che in questo momento tra l'altro sono stati anche inibiti nell'emetterne di nuove, per cui c'è un mercato che vive una situazione particolare questo. Avvocato Anastasi, torno da lei prima di cominciare a sentire anche gli ascoltatori, perché li ho stimolati a chiamarci all'800 24 00 24, poi ancora non riesco a sentirli, ma lo faccio tra pochissimo. Qual è invece il suo osservatorio su che fronte, dal punto di vista delle associazioni dei consumatori, le famiglie sono più indebitate? Ci ha già spiegato la situazione revolving, che ha avuto uno strumento che ha avuto una larga penetrazione soprattutto tra la popolazione giovanile e quella anziana. Per le altre forme invece di risparmio, insomma, come ci può descrivere la situazione? Il comparto dei mutui in questo momento è quello che risente. Chiaramente la spesa di una famiglia per il pagamento del mutuo prende una parte importante del reddito della famiglia stessa, e quindi se nella famiglia viene a mancare magari uno dei redditi, o comunque uno di questi redditi si contrae, è evidente che poi la sofferenza maggiore la si ha proprio sul mutuo. E quindi diciamo che sul discorso mutui si è lavorato, 2009, dicembre 2009, piano famiglie, accordo associazione dei consumatori, associazione bancaria italiana per la possibilità di sospendere le rate dei mutui, è un accordo che sta funzionando, sta andando bene, naturalmente con tutti i limiti degli importi, perché ovviamente le richieste sono tante. Ovviamente l'accordo aveva dei limiti di importo relativo alla cifra mutuata e anche all'importo ovviamente del reddito della famiglia. Sì, poi magari però questi parametri, glielo anticipo già avvocato Anastasi, li ribadiamo perché c'è qualche ascoltatore che ce ne chiede. Certo, era 150.000 euro il capitale mutuato e sto andando a memoria, sì, credo 30.000 o 40.000 euro. Poi riprendo io la tabella, magari siamo più precisi. Sì. Ecco. Sicuramente è un piano che sta funzionando, che ha consentito a molte famiglie, 24.000 in Italia, sì, a giugno, di sospendere le rate. È molto importante che questo piano prosegua, che con ABI lo si continui a monitorare e possibilmente a migliorare e a fare tutto quello che è possibile per migliorarlo. Qualche giorno fa, peraltro ne avete parlato anche appunto a Salvadanaio, del famoso fondo di solidarietà, o cosiddetto fondo Gasparrini, quindi comunque un altro fondo che dovrebbe consentire appunto la possibilità di fare mutui per l'acquisto della prima casa, però con una sospensione delle rate per un certo periodo di tempo. Ci auguriamo che però il Ministero dell'Economia regolamenti bene questo fondo, che non consenta la sovrapposizione, cioè che non ci sia la possibilità di usufruire e del piano famiglie e del fondo, perché vorrebbe dire che pochi usufruirebbero e molti resterebbero senza nessuna copertura. L'obiettivo è di cercare di spalmare, come si suol dire, su il più possibile di famiglie in difficoltà un minimo di aiuto. Ecco, questo è l'obiettivo che le associazioni si augurano, e quindi chiediamo anche al Ministero dell'Economia e ad ABI di poter lavorare anche a un regolamento di questo fondo, appunto appunto di solidarietà, perché appunto non crei sovrapposizioni con altri fondi che, o altri piani che comunque nel frattempo con già il piano famiglia, stanno lavorando. Benissimo, allora sentiamo intanto un paio di ascoltatori, poi suggerimenti per chi è in viaggio e concluderemo il nostro salvadanaio sul tema dell'indebitamento delle famiglie. Allora cominciamo con Nicola da Imola. Nicola, buongiorno. Buongiorno, auguri per la trasmissione. Io volevo sapere perché 2 anni fa, nel luglio 2008, mi hanno fatto la mia banca una surroga. Sì. Allora, siccome avendo altri 2 piccoli finanziamenti in corso, mi hanno unificato la rata. Sì, hanno fatto un consolidamento del prestito. Perché loro mi hanno obbligato a fare una polizza vita, è praticamente quella che io non riesco più a sostenere. Certo. Da 370 euro mensile. Ah però, cioè, è proprio un bel aiuto, Nicola. Lì io non la sopporto più e non so certo. Come fare. Avvocato Anastasi, ha sentito il caso di Nicola? Allora, una persona in evidente stato di difficoltà, aveva il mutuo, è stato surrogato e qui c'è stata una prima risposta positiva dalle banche interessate all'operazione, poi aveva altri finanziamenti in corso per alleggerire un po' il suo bilancio mensile che era evidentemente pesante. La banca gli è venuta incontro e gli ha detto: guarda, facciamo tutto un unico prestito, probabilmente l'avrà anche allungato, e quindi ha sostenuto una cosiddetta operazione di consolidamento dei propri finanziamenti. Ma naturalmente la banca, per poterlo accontentare, gli ha anche detto: sottoscrivi contestualmente con noi questa bella polizza che ti protegge, protegge la tua famiglia, la modica cifra di 375 euro al mese. Io non credo che Nicola abbia dei finanziamenti in corso tali che chiedono una protezione di questo tipo, ma detto questo lui non ce la fa a pagarla. Secondo lei può chiedere un alleggerimento da questo punto di vista, una sospensione? Poi lo chiedo anche a Piano Mortari. Sì, allora, tra l'altro il discorso dell'ascoltatore mi fa ricollegare anche al discorso che faceva prima il dottor Piano Mortari della cessione del quinto. La cessione del quinto, una delle problematiche era proprio legata ai costi delle polizze di assicurazione, perché avevano dei costi sproporzionati che pesavano in maniera esagerata sulle cessioni del quinto. Credo che poi, tra l'altro, la sto continuando ad interrompere, avvocato Anastasi, ma se non ricordo male l'ISVAP, l'autorità di controllo sul mercato assicurativo, ha acceso un riflettore sul tema delle polizze allegate ai mutui, che va chiarita più presto. Sì. Su segnalazione delle associazioni consumatori. Benissimo. E lo stesso vale appunto per questo tipo di mutuo e di questa tipologia, cioè probabilmente l'utente, il consumatore che ha telefonato aveva il mutuo e aveva forse qualche altro finanziamento. Sì. E quindi vengono richieste queste polizze, secondo noi in maniera assolutamente illegittima, perché comunque se poi naturalmente bisogna valutare sempre la situazione, la sostenibilità del debito del cliente, però è anche vero che se il cliente è un cliente che ha un normale reddito e quindi un posto di lavoro e quant'altro, la richiesta di queste polizze a nostro avviso è del tutto illegittima. Mm-hmm. E quindi io suggerirei al vostro ascoltatore forse di fare una richiesta ufficiale alla banca di revisione di questa di questo mm-hmm. tipo di contratto in qualche modo che gli è stato imposto. Avvocato, avete qualche sede? Soltanto per precisare quello che stavamo dicendo prima del piano famiglie, cioè sì. Avevamo detto mutuo di 150.000 euro, 40.000 euro di reddito imponibile per ogni singolo mutuatario. Sì, ecco, la precisazione che lei diceva prima chiedevano gli ascoltatori. Esatto, no, tra l'altro ricordiamo anche che il periodo di sospensione della rata previsto dal piano famiglie è di 12 mesi, l'eventuale adesione invece al fondo di solidarietà conferisce questa facoltà per 18 mesi, però per fare richiesta alla banca per aderire al piano famiglia c'è tempo fino a febbraio del prossimo anno, il fondo di solidarietà invece deve ancora partire e chissà che non parta contestualmente alla fine dell'altra operazione. Ah, così a spanne vedo che Piano Mortari mi dà anche ragione, potrebbero essere questi i tempi. Senta, su questa questione delle polizze agganciate ai finanziamenti, Piano Mortari. Sì, allora il caso di Nicola ovviamente andrebbe analizzato con le carte davanti, bisogna capire quanto la polizza sia obbligatoria per ottenere il finanziamento, quanto sia indispensabile mantenerla attiva per poter continuare ad avere il finanziamento. Che però è stato definito una surroga così a naso, direi che non è una surroga in senso tecnico, la surroga è una sostituzione di un finanziamento, sì, anche in termini di importo, esattamente con un nuovo finanziamento. qui è un consolidamento, cioè ha inglobato anche altri finanziamenti, quindi probabilmente non è tecnicamente una surroga. In ogni caso il discorso della polizza vale comunque, surroga o non surroga, bisogna vedere se appunto il contratto lo prevede come un vincolo obbligatorio. Ma magari il contratto non lo prevede, però se questa persona va in banca con una scarsa capacità magari dialettica e contrattuale, l'impiegato gli dice no, è obbligatoria, ciao, lui come si difende? No, deve leggere bene le carte. Deve leggere bene le carte, forse farsi assistere da qualcuno che possa aiutarlo e verificare se non sia possibile recedere dalla sola polizza assicurativa, cosa che in molti casi è possibile, in tutti i casi in cui non c'è un vincolo stretto tra il finanziamento ottenuto e la polizza assicurativa. Nicola, magari ci facciamo noi da intermediari in questa, come dire, intanto individuazione del presupposto della obbligatorietà della polizza o meno. Se ha voglia ci scriva all'indirizzo salvadanaio@radio24.it. Mitri da Lecco, buongiorno. Buongiorno, vorrei dire una cosa riguardo questo che sta dicendo, questo argomento che sta dicendo per quanto riguarda la polizza. Sì. Quando mio figlio ha fatto il mutuo per acquistare l'appartamento, 80.000 euro circa, hanno chiesto ovviamente l'ipoteca, hanno chiesto l'assicurazione e in più hanno chiesto a me, perché sono proprietario di un appartamento, una fideiussione. Cioè al momento, siccome avevamo bisogno, sono innamorato di questa casa eccetera, non siamo stati lì tanto. No, poi tra l'altro mi scusi Mitri, non vorrei interrompere, 80.000 euro insomma rispetto agli importi a cui siamo abituati adesso, voglio dire, anche esatto, effettivamente molto molto ragionevole. L'appartamento l'ha pagato 180.000, cioè 5 anni fa, adesso sarebbe già incoperto, perché comunque 5 anni. Ecco, quello che volevo dire, ecco, era un'altra cosa. All'inizio ci hanno spinto per fare abbiamo contattato diverse banche ovviamente, però questa che ci sembrava che ci facesse le condizioni migliori, ci ha spinto a fare il mutuo a tasso variabile. Ebbene, si pagava su circa 500 euro, poi è andato su eccetera e siamo arrivati negli ultimi anni, giusto prima della crisi, a su 750, adesso è andato ancora giù. Certo. Però siamo qua sempre col cuore in gola quando parlano del Trichet che dice no, non aumentiamo, non aumentiamo. Lo so, in quanti siamo. Però guardi, quindi metti in sostanza qual è la questione, ha paura che questa rata torni ad aumentare, quindi che si possa ritrovare in difficoltà. Ecco, l'altra domanda che volevo fare è questa: siccome ha preso mio figlio dei BEI, no, che l'anno prossimo dovrebbero scadere, non è tanta roba. Però obbligazioni delle. Mitri, io la interrompo. Noi stamattina non stiamo parlando di strumenti di risparmio. Abbia la pazienza, magari ci telefoni un'altra volta. Mi soffermerei per un secondo sul mutuo, la possibilità che possa compromettere la serenità familiare di questa famiglia. La mia considerazione di base è, senza fare la bacchettone alla maestra, avvocato Anastasi, che intanto per chi ha il cuore un po' debole deve assolutamente non lasciarsi convincere dalla banca a fare il mutuo a tasso variabile, anche se io non credo che questo Dimitri esploderà di nuovo in termini di rata. Però diamo intanto subito questa raccomandazione: se avete paura che la rata aumenti anche di soli 20 euro, il mutuo a tasso variabile non è per voi, punto. No, certo, ma tenendo presente che negli ultimi tempi anche noi associazioni abbiamo cercato di fare un po' di informazione, cioè spiegando che soprattutto per i mutui nuovi ovviamente, quindi per chi adesso è intenzionato a acquistare casa, giovani coppie insomma che vogliono sposare e quant'altro, ci sono una serie di ipotesi di mutui con protezione, con il cap. Sì, con protezione, esatto, con formule le più diverse, però ecco, anche combinate, chiamiamole così, quindi un po' variabile, un po' fisso, insomma, cercando poi di poter andare un po' a seguire l'andamento dei tassi del mercato dei tassi. Per quanto riguarda l'utente che ha chiamato, forse, così c'è stata una frase che ho colto, in qualche modo loro si erano innamorati, il figlio si era innamorato di una certa casa, ecco, forse quello è un elemento che probabilmente in quel momento non li ha fatti riflettere e ha fatto sì che probabilmente quell'immobile forse aveva un prezzo e un costo che forse la coppia che stava acquistando non era in grado forse di permettersi completamente, ecco perché la richiesta di fideiussione al padre, al genitore, che è sicuramente una richiesta tra virgolette legittima. Corretta. Da parte della banca, forse ecco, bisognerebbe fare delle valutazioni sul merito del credito e sulla sostenibilità di un tipo di mutuo. Ecco, in questo senso noi chiediamo che visto che non è stato fatto in passato purtroppo, che per il futuro ci sia un minimo di una consulenza in questo senso nei confronti di chi sta chiedendo un mutuo, spiegando che qualche volta è vero ci siamo innamorati di una casa che però probabilmente avremmo delle difficoltà a permetterci poi di pagare il mutuo e quindi forse bisogna prima andare in banca, esatto, ecco, bisogna prima andare un momentino le proprie le proprie speranze, i propri desideri, proprio per evitare poi di doversi indebitare e magari sovraindebitare, tenendo presente che sicuramente nel passato, insomma, la vicenda dei qualche volta è successo, variabile, sappiamo. Sì, esatto. Devo interrompere l'avvocato perché sto chiudendo, devo concedere almeno 30 secondi di chiusura anche a Giuseppe Piano Mortari, magari se vuole anche riflettendo sul caso dell'ascoltatore di Lecco. Lo vogliamo intanto però rassicurare che così nel breve termine la sua rata non dovrebbe esplodere, quando magari avrà anche oltrepassato la soglia del pagamento degli interessi e comincerà a pagare praticamente la quota capitale, sarà forse quello il momento in cui i tassi ricominceranno ad esplodere, forse lui può, perché ha già pagato un bel po', insomma su 15 anni ne ha già pagati 5. Sì, no, infatti adesso io non sono in grado di darmi un suggerimento puntuale perché dovrei conoscere la situazione, ma probabilmente e questo è anche il momento in cui sono particolarmente bassi i tassi fissi. Magari passare di là, a fare una surroga, ecco, bravo, visto che cerca la tranquillità. Però in generale, se posso in 30 secondi anche in 20, le due questioni a cui si deve fare riferimento, stare attenti quando si fa un mutuo e si deve scegliere fra il fisso e il variabile, sono uno, quella della convenienza, perché probabilmente nonostante la scelta tasso variabile è stata vincente la sua, cioè alla fine del periodo lui, comparando il suo mutuo con quello con un tasso fisso fatto nel momento in cui ha fatto il tasso variabile, probabilmente lui avrà speso di meno. E questa è la prima questione, quella della convenienza. L'altra è quella della sostenibilità. Quanto più si rischia nel caso in cui aumenti la rata legata al tasso variabile che la rata diventi insostenibile, allora tanto meno si deve ricorrere al tasso variabile. Vi sto mettendo fretta purtroppo, ma sono già fuori di un minuto oltre il tempo a mia disposizione, ma sui debiti delle famiglie italiane torneremo di sicuro. Grazie a Giuseppe Piano Mortari e a Maria Stella Anastasi, concludiamo qua, ci sentiamo domani, e domani parliamo di Fastweb, però vi allerto già, buona giornata.